Mi piace quando taci perché sei come assente e mi ascolti da lungi e la mia voce non ti tocca. Sembra che gli occhi ti siano volati via e che un bacio ti abbia chiuso la bocca. Poiché tutte le cose sono piene della mia anima, emergi dalle cose, piene dell'anima mia. Farfalla di sogno, rassomiglia alla mia anima e rassomiglia alla parola malinconia. Mi piace quando taci e sei come distante e stai come lamentandoti, farfalla turbante. E mi ascolti da lungi e la mia voce non ti raggiunge. Lascia che io taccia col tuo silenzio. Lascia che ti parli pure col tuo silenzio, chiaro come una lampada, semplice come un anello. Sei come la notte, silenziosa e costellata. Il tuo silenzio è di stella, così lontano e semplice. Mi piace quando taci perché sei come assente, distante e dolorosa, come se fossi morta. Allora una parola, un sorriso bastano e son felice, felice che non sia così.